c'è un giambo che sale. Son partite le rondini, partono i taxi e le barche nel mare. Mi son seduto, di colpo son partiti gli occhiali, son partiti gli amici e tra poco riparte lo shuttle nei cieli. Ma se son partiti tutti, anche i treni dalla stazione, io mi chiedo per chi sto cantando questa canzone. Scusa Duodeno, non ti avevo mica visto. Vieni qua, vieni qua, dai, fa buono.